L'ospite di questo sabato sarà Georg Levin, che è un personaggio che incide per un'etichetta interessantissima, che è la Sonar Collective, etichetta affiliata poi alla Compost Records. Suoni che fanno riferimento chiaramente alla crew dei Jazzanova, che sono i produttori europei più importanti per quanto riguarda il broken beat e il new jazz. Questi nuovi stili che appunto riprendono i suoni neri, come il soul, come il jazz, appunto, e li trasformano, li catapultano in un'ambientazione sonora più futuristica, diciamo, che è quella della musica dance, quindi della musica elettronica, del broken beat, del breakbeat. E se da una parte ci sono delle strutture, delle architetture ritmiche abbastanza forti, estreme, che fanno riferimento appunto alla club culture elettronica, da un'altra parte poi c'è questo approccio più soul, più nero, con un'anima sicuramente più tradizionale. I due stili si fondono veramente molto bene nell'album di Georg Levin, che è appena uscito per la Sonar Collective, album che sarà presentato dal vivo sabato 10 gennaio alla Palma, in collaborazione con DJ Dixon, poi che è uno dei DJ che fa parte del collettivo Jazzanova. Quindi sicuramente è una serata da non perdere.